Margherita Porete. Nata alla metà del 1200 nelle Fiandre, Margherita Porete ha lasciato notizie certe solo della sua morte, il rogo come eretica, il 1 giugno 1310 nella Place de Grève a Parigi. Probabilmente anche il nome non era il suo. Molte donne in odore di eresia venivano chiamate Margherita, poiché la radice marg significa tergere, pulire, e veniva spesso dato alle donne medicina per l'assonanza tra marga e maga. Porete poi potrebbe definire lo stato di povertà nel quale decise di vivere. Margherita, autrice del più antico testo mistico della letteratura francese, Lo specchio delle anime semplici, era una donna colta. Aveva tradotto le sacre scritture in volgare e dimostrato nel suo libro una padronanza della lingua e dei concetti metafisici che la Chiesa non poteva accettare in una donna. Margherita inoltre era una beghina, ovvero una religiosa che, senza prendere i voti e senza il riconoscimento da parte delle istituzioni ecclesiastiche, conduceva una vita casta e povera vestendo il saio. Le beghine erano delle mistiche che desideravano una vita semplice ed essenziale secondo una modalità ancora più metafisica di quella catara a loro contemporanea. Nell'Europa del 1200 le donne non potevano scrivere o discutere di religione. Trovarono pertanto un modo per esprimere una religiosità tutta femminina che non poteva più essere imbavagliata dal silenzio coercitivo, dall'obbligo di scegliere tra un marito o un convento e dal continuo insistere sulla loro inferiorità morale e giuridica sostenuta dai padri della Chiesa che seguivano Paolo di Tarso e Aristotele. Nel nord dell'Europa, Francia, Germania, Paesi Bassi, Fiandre, le donne si riunirono in comunità e andarono a vivere in case comuni chiamate beguinage, da cui la parola beghine. In queste case comunitarie, nelle periferie delle grandi città, le donne, unite dalla stessa fede religiosa, trovarono un'alternativa al matrimonio e al convento, vivendo in piena indipendenza dagli uomini. E se non appartenevano a un ordine riconosciuto dalla Chiesa, vestivano da laiche e si mantenevano con il loro lavoro manuale. Nei beguinage, tuttavia, vivevano donne di rango e istruite, che si esprimevano e scrivevano in volgare, di filosofia e teologia, argomenti da sempre considerati di appannaggio maschile, come ci ricordano le veneziane Elena Cornaro Piscopia e Moderata Fonte. Fu così che queste donne, che vivevano del loro lavoro e che con questa strategia avevano trovato il modo di evitare la sottomissione a un marito o alla chiesa, cominciarono a essere calunniate, accusate e soggette a interventi disciplinari della chiesa. E a causa di ciò che oggi la parola beghina ha una connotazione dispregiativa. Le anime semplici, che danno il titolo al libro di Margherita Porete, sono quelle appartenenti alla comunità delle beghine in cui viveva la stessa Margherita, ispirate ai movimenti medievali del libero spirito. Contemporaneamente, nel Milanese, si formava la chiesa guglielmita, di cui ho scritto nel mio libro Antenate la visione delle donne. Lascio il link qua sotto nella descrizione, intitolata a Guglielma la Boema, riconosciuta come incarnazione divina. La chiesa guglielmita era tutta femminile e aveva una sua papessa nei panni di Maifreda da Pirovano, anche lei naturalmente finita sul rogo. Di Margherita ci resta il suo eccezionale libro Scampato al rogo. Lo specchio delle anime semplici appartiene a un preciso genere letterario, quello degli specchi medievali, ossia spiegazioni, insegnamenti. Margherita scrive un dibattito filosofico tra ragione e anima, cui si uniscono via via virtù, cortesia, timore, desiderio, ma soprattutto amore. L'umiltà e il riconoscimento della nostra dipendenza da Madre Terra sono il massimo bene, il massimo obiettivo. È la sconfitta dell'ego, il distacco da ogni attaccamento, incluso quello a Dio, inteso come idolo a cui rivolgersi per ottenere favori o da accusare se le cose vanno male, la tensione verso il distacco e l'essenziale, la rinuncia all'avere per perseguire l'essere. Il libro si rivolge a coloro che Margherita, questa donna aristocratica e coltissima, definisce gli smarriti, ovvero coloro che pur avendo perfezionato in massimo grado la loro virtù ed essendo giunti alla contemplazione, sentono che c'è ancora un altro livello, quello della non condizione dell'anima annichilata, il totale annullamento di se stesse nell'energia divina, il totale silenzio dell'ego, il ritorno all'unità nella vita divina, dove l'anima annichilata vive priva di desiderio e sceglie di abbandonare la propria volontà, si libera dalla memoria e trascende la percezione sensoriale. Scrive Margherita: l'anima così annichilata non ha in sé né timore, né desiderio, né rimorsi di coscienza, non vuole né questo né quello, ed è sempre senza se stessa, pur esercitando attività ininterrotta dell'intelletto. Avendo trasceso l'umanità, vive uno stato di assoluta libertà, da cui sono assenti timore, volontà, affettività, virtù. Al centro di tutto vi è la signora amore che, scrive Margherita, non tiene conto di vergogna o onore, di povertà e ricchezza, di inferno o paradiso, e giunge a guardare la morte della ragione. Margherita definisce piccola, tra virgolette, la Chiesa dei potenti istituita sulla terra ed esalta invece la vera Chiesa, semplice e invisibile la definisce, senza dogmi, ispirata alla vera carità. Il libro fu bruciato una prima volta a Valenciennes, alla presenza della stessa Margherita, che fu diffidata dal vescovo dal darne pubblica lettura. Ma lei, dopo averlo riscritto, continuò a farlo circolare. Fu perseguitata per 10 anni, arrestata e consegnata a Parigi nelle mani del grande inquisitore di Francia, al quale non prestò giuramento di lealtà. L'inquisitore tentò per più di un anno e mezzo di far parlare Margherita e di concludere il processo con la sua abiura, ma lei non cedette e l'uomo dell'inquisizione fu infine costretto a consultare ben 21 teologi dell'Università di Parigi per fornire un fondamento credibile all'accusa di eresia. Ma non lo trovò. Margherita aveva scritto nello specchio: l'anima non risponde a nessuno se non vuole, qualora non sia del suo lignaggio. I suoi nemici non hanno risposta da lei. Nonostante le fosse stato lasciato un anno per pentirsi, Margherita scelse di andare a rogo come una regina, senza degnarsi di rispondere ai suoi giudici, non riconoscendoli come tali. Come donna, ella violava l'antico divieto patristico di insegnare pubblicamente. Proponeva una religione interiore e spontanea, senza gerarchie né beni e soprattutto aveva proseliti. La sua condanna a morte era inevitabile. Fu legata al palo. E il libro deposto ai suoi piedi bruciò con lei. Insieme a Margherita bruciarono la maternità della sua opera. Margherita fu mandata a rogo non per aver scritto quel libro, ma per aver scritto e basta. Gli inquisitori videro in quest'opera la possibilità di un'emancipazione femminile inaccettabile. Per 2 secoli, l'unico manoscritto sopravvissuto, nonostante la scomunica, copiato in segreto più volte, assicurò il suo ricordo. Poi sull'opera di Margherita scese l'oblio, rimosso soltanto di recente, quando la medievalista Romana Guarnieri trovò nelle biblioteche vaticane la versione latina dello Specchio delle Anime Semplici. Beh, quella francese non esisteva più. Confrontando le frasi con gli atti del processo a Margherita, Romana risalì alla maternità dell'opera. Contemporaneo di Margherita, il mistico tedesco Meister Eckhart si ispirò alla sua opera, ma lui non fu processato né arso vivo, poiché essendo uomo non gli era vietato pensare, scrivere, predicare. Secondo quello stesso diktat dei padri della Chiesa, che provocò il femminicidio anche di Ipazia di Alessandria, e come Ipazia, anche Margherita risorge dopo 8 secoli dalla damnatio memoriae cui il patriarcato l'aveva condannata.